Hey. Oh, what you say? Oh, what you say? Sì, va giù la tua porta. Ci riconosci. Non ti puoi sbagliare su questa gente. Puoi confondere. Giù la tua porta. Inconfondibile. Più giù, più giù. Non ti sbagli. Non ti puoi sbagliare. CB in Nation 2-0-0-8. Pitria, niente finti gia. Spingiamo questa musica convinti sia magia. Senti come zocca, roba come si tocca. Si ascolta e non si tocca, anche perché scotta. Lo sai come lo facciamo, mai e poi mai a 90 per denaro. Chiaro, il nostro rap raro, Riot. Non è certo quella merda che senti alla radio. Meglio bevo il rap con un flow alcolico, talmente alcolico che sulla strumentale caccio vomito. Imperterrito continuo il mio cammino, pure senza seguito che mi dia giusto credito. Io l'eretico, l'amico degli amici miei, ma con te gelido. Sì che medito un testo, ma non aumenta il reddito al terzo. Non annulla il debito, sai che non scherzo. Sì pronto a tutto quando mi avvicini, perché non vado a raziocini. Piccante più del chili, ho chili di doppi sensi e tu non ti fidi. Ma mi guardi da lontano fino a che non ti ritiri. Sono chilometri più in là, distanze lunghe, facendo cose adatte solo per gente adulte. Quando ti parlo trovi le mie storie assurde, in più le rime sono sassi lanciati da catapulte. Insomma devi saper prendermi, fumo sensi mi e combatto il potere. Public enemy. E non mi chiedere. Senti ma tu fai re. Io faccio guerra sore. Rappresento la mannaia rec. Vita che va capita da qualcun esperto di credenze radicate nel profondo del tuo petto. Street love rientra nei miei gusti. Non li fermi i nostri flussi perché sono quelli giusti. Inconfondibile l'impronta che resta ogni volta. Conta il danno a quanto ammonta. La quiete è rotta, va giù la tua porta. Siamo nella casa e la lasciamo sporca. Inconfondibile l'impronta che resta ogni volta. Conta il danno a quanto ammonta. La quiete è rotta, va giù la tua porta. Siamo nella casa e la lasciamo sporca. Lascia perdere lo stile inconfondibile. Non è il vostro genere, se per voi è orribile. Continua a scrivere ugualmente, competente. Questo è il mio campo, lascio uno stampo. Fino a che campo, certo non cambio di troppo mentalità. Mentre qua so già che un modagliolo e me lo scolo come la birra più imbevibile. Ti vedo fel gasato come le bibite, ma ti scasi subito. Io non sono un gaggio, non matteggio. Il mio rap è solamente il peggio. Meglio di chi voti a seggio. Io non indietreggio, non cazzeggio. Faccio ciò che faccio per dare un segno di me stesso. Più spesso, più spesso, così rimango impresso. Qua zero fascio. Più spesso, così rimango impresso. CB Nation. Ho sempre qualche sul già presso. Nel weekend esco e faccio il grezzo dentro il tuo locale fashion. In quanto a stile non ci batti, difatti è così che siamo nati. Tu impara a camminare in tacchi. Sono tutti matti ma non sick, no. Non chiedermi di fare lo sprint, che poi mi trinco il tuo long drink. E la mia click Milami resta qui, vivendola tra 9 settimane e mezzo in liberty. L'espressione resta libera, ma non pensare al cinema. Qua fa freddo, quasi ci si assidera. Voleva farmi la festa, ma sentitela. Cazzo se mi riprendi mentre fotto un'altra vipera. E poi non mi interessa niente del tuo partito preso. Se il tuo gesto stona resti un indecente. Niente di simile, questo per te non è vivibile. Pare impossibile, ma il marchio è inconfondibile. Inconfondibile l'impronta che resta ogni volta. Conta il danno a quanto ammonta. La quiete è rotta, va giù la tua porta. Siamo nella casa e la lasciamo sporca. Inconfondibile l'impronta che resta ogni volta. Conta il danno a quanto ammonta. La quiete è rotta, va giù la tua porta. Siamo nella casa e la lasciamo sporca.